una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan in Italia e all'estero. Kakà rimane al Milan. Non si vende Kakà, ve lo ricordate, no? Quella notte con la Fiorentina, la maglietta fuori dalla finestra, era fine del mercato di gennaio, poi andò scegliendosi la destinazione al Real Madrid l'estate successiva. Ma intanto Emiliano Mondonaco, il gallo separato dalle oche, non c'è più pericolo? Sai che c'è tutta una relazione con un'oca. Eh? Non ho sentito. Ha avuto una relazione con un'oca perché Oddio. È qui tutto fermato. Oddio. Vabbè, speriamo bene. Speriamo che gli sia piaciuto. Senti come canta, che spettacolo che è. È felicissimo, pensa a te, noi critichiamo le oche. Guarda che alle ditemi. No, ma io ti stavo ascoltando con profonda invidia, caro Emiliano. Pensavo ai galli nel pollaio di Berlusconi. Ma Allegri conta qualcosa nel Milan o no, secondo te? Secondo me sì, Allegri è quello che ha mandato quando c'erano le 5 Stelle, ha vinto il campionato giocando con i tre mediani. Perciò diciamo quando è il momento giusto fa quello che vuole lui. Scusate che sto stanno disturbando. No, ma che disturbare? No, disturbando perché questo qui continua a fare chicchi, ma non si sa perché, perché siamo dopo mezzogiorno, o pensa sia l'alba. Oh, vabbè, è un po' andato, però l'altro gallo del pollaio lo sta attaccando. E vabbè, è un po' di guerriglia urbana. Guerriglia in mezzo al frutteta. Senti, ma a proposito di guerriglia urbana, Sassi contro il Pullman del Verona, io continuo a, lo dico in un giorno in cui rischio di essere molto impopolare, però io sono stufo di quelli che dicono che allo stadio devono tornare le famiglie. Quando ci andavano le famiglie allo stadio? Negli anni 70-80, quando c'erano le cariche dentro al secondo anello? Purtroppo ci sono di queste situazioni che sono chiaramente una cosa che non esiste. Cosa vuol dire tirare dei sassi contro il pullman? Cioè io capisco tutto, ma al limite vai faccia a faccia, che cosa vuol dire? Ah già. Uno tira dei sassi contro il pullman, tira dei sassi contro il treno, tiri dei sassi dal cavalcavia sulle macchine, cioè spiegami che significato ha, che cosa dimostri? Dimostra che sei un vigliacco. No, dimostra che pensi che possa essere importante anche in questa maniera, però incomincia e finisce lì, non c'è neanche da commentare perché no, sono perché se no gli fai pubblicità e questo io non voglio farlo, no, e infatti non ne voglio parlare più. Sono situazioni così assurde che non vale la pena neanche di spiegare, anzi se le spieghi vuol dire che pensi che molti non capiscono e sarebbe un'offesa. Senti Mondo, ti chiedo ancora questo e poi ti lascio lavorare sul serio. Adesso li ho mandati fuori in mezzo ai prati, stanno beccando l'erba e perciò non è un momento di relax da parte. C'è il gallo che sta seguendo l'altro gallo, secondo me secondo me sei innamorato il gallo dell'oca. No, è innamorato dell'oca, ma l'altro è incazzato. Chissà se gli tira un sasso. Pensa se prende un sasso in bocca e cacchia glielo tira addosso. Via, squalificato subito. Tre turni senza ricorso, senza prova TV. Senti, no, non mangia. Lo metto in un box da solo. E tutte le galline nel bosco vicino con la rete finissima che li separa, di modo che non può neanche sentire il sapore. Ma l'ultima cosa che ti chiedo è chi può essere il galletto nel pollaio del campionato, alla caccia del gallo cedrone bianconero? Ma Cassano nel Parma sicuramente, ed è bene, penso che io ho pronosticato il Parma a squadra rivelazione, come l'ho fatto 0 punti in classifica. Però ci credo io che Cassano in una squadra di provincia non solo possa fare la differenza e perciò il Parma può fare ancora meglio dell'anno scorso. Sicuramente Balotelli è un gallo che però va d'accordo perché è un gallo buono. Ci sono i galli buoni, no? Che magari sono quelli più forti però non abusano della loro forza. Poi dopo è chiaro che l'autostima nel calcio è determinante e chi più del gallo autostimo di se stesso. Ah certo, ti saluto con Roberto da Crema che ti vorrebbe presidente del Torino subito. Non credo sia il baffone, bisogna stare attenti perché bisogna avere i soldi. Io ti dirò che in questo momento che non ho una squadra, se avessi soldi a sufficienza comprerei una squadra e farei presidente allenatore, così almeno faccio allenatore. Però è bene invece che i presidenti li facciano altri. Grazie Mondo. Grazie a voi e buona giornata a tutti. E non preoccupatevi che il Gallo è tutto a posto. Certi amori. No, ma basta! Ma togliete questa roba! Toglila subito! Vado via, così sono contenti gli ascoltatori. Levami questa, ti prego. Guarda che richiamo Mondonico, perché voglio la telecronaca diretta della liaison tra Gallo e Oca. 800240024, abbiamo visto una domenica di un weekend di campionato secondo me spettacolare, ripeto. Poi parliamo, oltre che di Galli e Galline, parliamo anche di Papere, questo più tardi, perché anche lì abbiamo visto cose che voi umani non potevate neanche immaginare. Adesso però voglio parlare con gli ascoltatori, sono molto ansioso e curioso di aprire questo weekend con loro. Ancora? Cioè, ma già a me Vendetti non è che fa impazzire. Poi adesso ci viene il diabete a tutti. Gianpaolo Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, tifoso Hellas. Sì? Volevo portare l'attenzione sul fatto di cronaca che è venuto ieri in sera a Roma. Starci contro il pullman della squadra. E purtroppo sono episodi che si ripetono, anche qualche settimana fa Palermo contro i nostri tifosi. E mi sembra, tra virgolette, insomma, che l'attenzione per quanto riguarda questi fatti è un po', diciamo, scemata. Ma io credo che sia doveroso sottolineare queste cose che sono porcherie, sia doveroso indagare, sia doveroso trovare quella, dice Mandorlini, qualche delinquente il calcio non c'entra, poteva davvero finire male soprattutto per il nostro autista, sia doveroso individuare quella, qualche delinquente il calcio non c'entra, però sia anche necessario non fare, e questo, e qui parlo in generale non solo di questo episodio, troppa pubblicità a questi qualche delinquente il calcio non c'entra. Poi è chiaro che la questura sta indagando, si dice la voce della questura di Roma, il pullman della squadra è stato colpito con un lancio da lontano, i tifosi non sono mai arrivati a ridosso del mezzo colpito, ma questo che vuol dire? Perché a ridosso o non a ridosso sono stati lanciati dei sassi contro il pullman di una squadra, e questo è, non mi viene altra parola che non sia un banale inaccettabile, tra virgolette, questo è quanto. Insomma, quel qualche delinquente del calcio non c'entra, va bene, ma che venga stanato, è messo in prigione, punto. Non saprei che altro aggiungere. Massimo Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei per aver risposto. Io telefono perché volevo dire la mia su Cacratti. Io trovo veramente, è allucinante vedere tutti quei tifosi che saltano all'aeroporto perché è tornato un giocatore che da 4 anni che non gioca, 32 anni, e ci ha messo una settimana per decidere che stipendio voleva prendere. Sì, se voleva rinunciare a quei 10 che prendeva Real Madrid e che sono stati per lui settimana. Una prigione. Ci ha messo una settimana. No, ci ha messo di più. Ci ha messo di più perché il Milan lo voleva già riprendere l'anno scorso, quindi ci ha messo ben più e di poi, una settimana. Io volevo dire, ma a tutti questi tifosi che saltano, ci pensano a magari a El Shaarawy, che adesso verrà allora, messo in discussione. El Shaarawy, aspetti, ho una notizia. El Shaarawy, a proposito di El Shaarawy, che chiaramente viene da questi giri, matrix, eccetera, viene messo ai margini delle rotazioni, però lui ha detto resto al Milan, la mia è una scelta precisa e qualsiasi offerta arrivi io voglio restare, lo ha detto oggi, non contesto le scelte dell'allenatore, Ricky è mio idolo, contento di giocare con lui, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra evidente nella logica dei fatti che El Shaarawy sia stato messo non in discussione ma in disparte dal Milan, il motivo onestamente mi sfugge. Quanto a Kakà saranno i Ringo Boys, no? Oppure sarà quello che Galliani chiama, e questo è molto importante al di fuori della parafrasi dell'ironia e dello scherzo, quello che Galliani chiama il popolo degli orfani di Kakà, perché dopo la cessione di Kakà di 4 anni fa il Milan ebbe un crollo verticale degli abbonamenti, qualcosa intorno al 40%, e il popolo degli orfani di Cacà non è più tornato allo stadio, quindi questo è estremamente significativo. Quindi gente che salta, operazione nostalgia, mossa di nuovo molto glamour del Milan, nostalgica, eccetera eccetera. Cacà è stato il giocatore più amato degli ultimi 15 anni in generale, trasversalmente dal popolo rossonero degli ultimi 20 anni, o di sempre, uno dei più amati di sempre dal popolo rossonero. Ok, possono tornare gli orfani di Cacà? Questo ve lo chiedo, io non lo so. Secondo me ci ricordiamo tutti quanti un giocatore diverso da quello che è tornato, al di là del sorriso, della faccia, della genuinità, della spontaneità, della dolcezza, di tutti i belli aggettivi che vogliamo mettere. Ma se parliamo di pallone, allora torna un giocatore o l'ologramma di un grande giocatore che è stato? Questa è una domanda che al momento, secondo me, è senza risposta. Luciano Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io chiamo a proposito delle polemiche fatte a tutti i costi sul Milan. Quali? Ma tutte quelle che ho sentito, tutte le castronerie, per non dire un'altra parola, diciamola, che finisce per azzata, che ho sentito in questi giorni, no? Sì. Quando il Milan fa un'operazione deve esserci per forza la polemica. Intanto, su quale base lei dice che il Shaarawy verrà messo in disparte? Insomma, non lo sappiamo, ha giocato ascolti, fino... Luciano, però se El Shaarawy dichiara resto al Milan, la mia è una scelta precisa, qualsiasi offerta arrivi io voglio restare, che cosa vuol dire? Cosa dichiara? Eh? Resta al Milan, cosa ha dichiarato? Resta sì, Milan. Ma c'è bisogno di fare una dichiarazione così se non fosse messa in discussione? Ma certo, se gli fanno delle domande non risponde alle domande, ma al di là di questo, no, venerdì ho sentito una castroneria da un suo collega, sì, che è intervenuto nella sua trasmissione, dicendo che l'arrivo di Cacà dimostrava che Allegri non conta nulla nel Milan. Però Matri veniva comprato per accontentare l'allenatore, quindi il Milan spende 11 milioni di euro per un allenatore che non conta nulla. Questo è assurdo, cioè sentire certe cose proprio è un'assurdità unica. Sì. Come si fa a dire una cosa del genere? Che Allegri non conta nulla nel Milan. Detto questo, secondo lei Allegri vuole Cacà, quindi è contento del ritorno di Cacà? Secondo me sì. Va bene. E Allegri vuole Shaarawy o non lo vuole, secondo lei? Secondo me sì. Ah, ok, allora queste sono cose che scopriremo vivendo, perché io sono convinto invece che Matri è certamente un pupillo di Allegri. Sono altrettanto convinto del fatto che Allegri avrebbe preferito altri giocatori. Sono altrettanto convinto del fatto che Allegri, se non gli prendevano / imponevano un trequartista, era contento lo stesso e dormiva meglio. Sono convinto del fatto che Milan avrebbe bisogno tuttora di qualcosa di nuovo e di diverso in quel centrocampo, e ovviamente dico una vanità in quella difesa, però arriva Cacà. Se sono tutti contenti, compreso El Shaarawy, che è messo in discussione, perché ripeto, un giocatore che fa quella dichiarazione è perché sa di essere sul mercato in queste ore e il mercato chiude alle 23 di oggi. Allora, se va bene tutto, diciamo che va bene tutto. Normalizziamo la situazione. 800240024, dopo la borsa. Sai che la 22 è pronta per te? Sì, lo so, abbiamo parlato anche di questo, quindi la riprendo. Tutti convocati. Pazzesco, ma come fa un gallo nel recinto delle oche? Entro perché è l'unico che ha un po' i colori nostrani. Stai attento, ecco, che non ti becchino. Sto separando le oche, adesso vediamo il gallo se non cade nella vasca. Eccolo qua, bravissimo. Telecronaca diretta. Tutto a posto. Allora, messaggi relativi 800240024, telefonate 349-238-6666. Non ho neanche, mi sono anche dimenticato di dire oggi il contatto per gli sms, ma non dimenticatevi anche Facebook, Twitter, perché siamo sempre... No, Facebook non ce l'abbiamo, no, scusatemi, Franco Piantanida è il nostro contatto su Facebook. Vabbè, Twitter però ce l'abbiamo, sms, mail, tutti convocati a radio24.it, siamo sempre connessi. Allora, messaggi relativi alla liaison tra gallo e oca. Non sono tanti i galli che frequentano le oche, ma purtroppo non sono tutte oche come quelle di Mondonico che fanno fuori i galli. Marina da Milano. Oppure Diego, Galletto che ha una relazione con un'oca, siamo nella fattoria di Mondonico o dentro l'Hollywood a Milano? Non so rispondervi, credo nella fattoria di Mondonico. Poi eccetera, perché ce ne sono un sacco sul tema. Restiamo nel pollaio. Questo è il ballo del qua qua, ed il papero che sa fare solo qua qua qua, il qua qua qua qua. Mamma papero e papà con le mani fa il qua qua, e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piego un po', fa scodinzola così, batti forte le tue mani. Allora, qui invece parliamo di qualcosa che abbiamo visto ieri, e cioè le paperissime dei nostri portieri che stanno trasformando il nostro campionato in una... in qualcosa di vicino al penoso campionato spagnolo. Occhio perché si incarta il portiere e la palla finisce in porta con il gol di Eder, 1-0 Sampdoria. Eder al primo tiro del match porta in vantaggio i blu cerchiati, ma papera clamorosa di Curci. Rossi Perin, ma che gol Rossi! Perin non trattiene al 14° minuto, secondo gol consecutivo per Pepito Rossi, qui con la complicità di Perin. Di sicuro sembrerà un bancala. Allarga destro per Megara, in area di rigore, Megara le finte, Megara contro Terranova, Megara va via, Megara, Rossati sbaglia! E il Livorno torna avanti, eccolo, innocente Megara, ha giocato male, ma la prima occasione l'ha messa dentro. (Ride) 800 24 00 24, numero verde. Bene, abbiamo visto anche meravigliosi gol, non so scegliere il migliore, aiutatemi voi. 800 24 00 24 il numero verde. Lei cambierebbe radio prendendo 60% in meno, meno ipocrisia, grazie. Respingo a Gianmarco l'affermazione, se io prendo il 20%, il 60% in meno faccio fatica a fare la spesa, non compro neanche il pane. Però al di là di questo, no, io non rinuncio. Però allora, se voglio fare questo mestiere o un qualunque altro mestiere e mi mettono stabilmente in panchina, beh, allora mi faccio due domande. Se sono e non sono stato cacà, se sono cacà, dico allora faccio il baby pensionato, il prepensionato, il pensionato del tutto, e sto lì seduto a guardare gli altri che giocano e prendo 10 milioni. Sì, può essere una scelta che però porta all'interruzione prematura di una carriera. Ora non so quali siano le condizioni fisiche di questo straordinario giocatore, so soltanto che, ripeto, l'anno scorso ha giocato numero una partita di campionato per 90 minuti per intero. Allora adesso vengo di lì e faccio un disastro. Levatemi questa roba, levami questa cosa. Luca Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. A me sorprende a volte, io sono un milanista da sempre, sorprende però sentire alcuni tifosi che sembra che non si accorgano che a volte la società, a quali siamo tutti affezionati, comunque pensa che abbiamo tutti gli anelli al naso, perché veramente quando ascolto alcuni interventi sono incredibili. Sì. È chiaro che siamo passati l'anno scorso dove hanno venduto tutto il vendibile, quello che, perlomeno quello che era monetizzabile a grandi livelli, facendola passare come una scelta societaria per andare linea verde, linea giovane, spazio giovane. Ma era una scelta societaria per fare del grano, perché serviva il grano, esatto, per mantenere la squadra. Esatto. Cioè, mi sembra abbastanza, esatto, scontato questo, no? Visto che l'anello al naso non ce l'abbiamo tutti. Esatto, è questo appunto. E dopo, a distanza di un anno, adesso ci troviamo che hanno preso Matri, hanno preso Kakà, sì, esclusivamente... sapendo già in partenza che, secondo me, se il Sharawi si arrabbiasse, sarebbe l'occasione al volo per venderlo immediatamente. Sì. Allora Luca, però io le giro invece questa domanda. Il Sharawi è sul mercato e questo è evidente. Il Milan ha già cercato di venderlo quest'estate, questo lo sa anche lei. Però se valeva 40, ipotizziamo, a gennaio dell'anno scorso, quando usciva da un girone di andata straordinario, è chiaro che non valeva 40 quest'estate, se no l'avrebbero venduto. Non so per quali motivi precisi, è un giocatore che non mi sembra rispecchiare il credo di Allegri, Allegri mi sembra non lo veda proprio come il centro del suo progetto, e le mosse di mercato lo dimostrano. Lui dice: voglio restare qui, qualunque offerta arrivi la rifiuto, però questo vuol dire, è la smentita di una cosa che è nei fatti, cioè che il Sharawi è sul mercato. Esatto, io sono d'accordissimo con questo, questo discorso, e mi suona strano che non lo capiscano tanti tifosi del Milan. È un po' una presa in giro quella di questi mercati di questi ultimi anni del Milan. Poi restiamo tutti affezionati al Milan, però sì, non facciamoci prendere in giro. C'è da dire, che con Balotelli è stato fatto il colpo della, secondo me, dell'anno, compreso il mercato estivo, perché, perché Balotelli, E non escludo che se l'anno prossimo possano monetizzarlo bene. Sì, può essere. Beh, ma d'altra parte, Luca, ma non è. Allora, innanzitutto smettetela di dirmi: ma parli solo del Milan. Cioè, mi sembra che gli argomenti di discussione nazionali siano questi. Se volete parlare di altro, comprese frisbee, boccette, quel che volete, potete chiamare, il telefono è sempre aperto, 800 24 00 24. Allora, Galliani piacciono gli assoluti, no? Incedibilissimo, difficilissimissimo, eccetera. Però al di là di tutte queste, di questa fiera delle S, Galliani ha detto una cosa estremamente importante, caro Luca, lei la sa bene, che è questa: il popolo degli orfani di Kakà. Lei sa perfettamente come il Milan, in ossequio a questa politica dell'autofinanziamento, che non è una parola inventata dai giornalisti, ma una parola pronunciata dall'establishment rosso-nero, perché il Milan deve autofinanziarsi ed è stato detto in tutte le lingue. Ebbene, il popolo degli orfani di Kakà sta disertando lo stadio. Da ormai 4 anni c'è stato un calo verticale, un crollo verticale degli abbonamenti e degli aficionados rossoneri allo stadio. Da quando è andato via Kakà, è chiaro che questa è innanzitutto un'operazione simpatia, un'operazione richiamo, uno specchietto per la Lodole, se preferite, qualcosa che può tornare a... Sì, la 22. Cos'è? Allora, può tornare a riaccendere l'entusiasmo di... Ripeto, delle mamme, dei bambini, dei Ringo Boys, non so se dei tifosi milanisti che guardano il calcio, o degli appassionati italiani che guardano il calcio, perché io non voglio più vedere un giocatore che assistere al triste tramonto di un giocatore, come era già successo con Shevchenko. Ho l'impressione che, spero, giuro, con tutto il cuore di sbagliarmi, ma ho l'impressione che potrebbe finire nella stessa maniera. Posso sapere perché Giovanna non se la prenda, perché tutto questo astio nei confronti della bellissima canzone di Antonello Venditti è uno scherzo? Non fa impazzire. Poi soprattutto oggi, questa canzone è stata lanciata da famosi disc jockey come Galliani e come oggi Cacano. Certi amori non finiscono, non l'ho detto io, l'hanno detto loro, oggi preferirei evitare. Allora, Marco da Mantova? Sì? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Solo una cosa, non vorrei, è inutile che parliamo, tra virgolette, o meglio, di calcio, perché comunque è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo. Davide, aspetti un attimo, lo leggo adesso. Prego. Davide, non scrivere sciocchezze. Un bua, un nero milionario viziato, e fai una trasmissione, un masso addosso ad un pullman e nemmeno vuoi commentare, schiavo del sistema. Non dire sciocchezze, non scrivere sciocchezze, e magari, se ci riesci, non pensarle nemmeno. Dica. Benissimo, io volevo parlare proprio di questo, del masso di Verona. Sì. Del masso di Roma tirato, a parte che non condivido assolutamente, anzi li brucerei tutti, sia i bu che per quel che riguarda pseudo... Non brucerei nessuno. Io guardi, purtroppo ragiono così, perché questo Bruciare no. Sì, no, bruciare nessuno. Diciamo è un eufemismo. Vabbè, detto questo, le ripeto, ma quando l'anno scorso il signor Mandorlini e tutta la squadra del Verona si sono messi a saltare a promozione, se non sbaglio, a promozione avvenuta, chi non salta è un terrone, se non sbaglio, in diretta TV, quando arrivano da, diciamo, nella mentalità, sì, diciamo, leghista, da Firenze in giù, cosa si aspettano? Rose e fiori adesso? Sì, allora, è questo che io non questa, capisco, vabbè, non li condivido, sia chiaro. Come si fa a condividere queste idiozie da una parte e dall'altra? Però è evidente, è come quando quest'estate mi dicevano: ma il carro armato dei tifosi atalantini è una goliardata. Ma è una goliardata un cavolo, perché poi gli tirano un masso al pullman dell'Atalante. Siamo qui, torniamo qui a dire tutte le stesse cose. Ci vorrebbe semplicemente da parte di loro signori maggior senso di responsabilità, ma di tutti, di tutti quelli che poi dicono: ah, ma allo stadio devono tornare le famiglie. Ma cominciate a comportarvi da persone normali voi, e poi vediamo chi torna allo stadio. Non mi piace neanche Prandelli, che fa il buonista, il perbenista, quando dice ma non facciamo finta di niente. A proposito di questo masso sul pullman del Verona, non facciamo finta di niente, è sempre più motivo di scontro, il nostro calcio non è così, non dobbiamo far finta di nulla, il problema della violenza va evidenziato, impone una riflessione, purtroppo il calcio rischia di diventare sempre più un motivo di scontro piuttosto che di incontro. Basta con queste cose, basta con questa banalità, basta con la storia dell'ora che le famiglie tornino allo stadio. Io dico solo che se ognuno, a cominciare dagli addetti ai lavori, cominciano a fare la loro parte, ognuno comincia a fare la propria parte, magari facciamo un primo passo. Quindi questo vuol dire senso di responsabilità da parte dei loro signori, e poi quegli altri che tirano i sassi semplicemente non gli si dà pubblicità, li si cerca, li si individua ed eventualmente, possibilmente, li si ingabbia. Tutti convocati. 800240024. Allora, per la precisione, Mandorlini cantava Ti amo Terrone degli Schiantos e, ripeto, poteva, o anzi doveva, evitare. Kakà, De Jong, Montolivo a centrocampo, Balotelli, Matre e Sharawi, questa è la formazione di Emiliano Mondonico. L'abbiamo sentita prima, tra un chicchirichi e l'altro. Ieri però è intervenuto in Tutti convocati della domenica con Giovanni Capuano anche Serse Cosmi, cui è stato chiesto un parere su Kakà. Allora di Kakà, seguendo... di Kakà che cosa pensa Serse Cosmi? Ma di Kakà conservo un ottimo ricordo. Del basta, tempo che fu. Voglio dire. Di Kakà conservo un ottimo ricordo. Ricordo. Ricordo. Gino, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Cento. Con la G, dica. Ma io dica. Mi sente? Sì. Ah, no, la sentivo. Io sinceramente. Dica Gino, la sento, la sto ascoltando. Ah, ecco, no, chiedo scusa perché sentivo male. No, la sento bene. Ma io rimango un po' avvilito di certe telefonate che fanno i tifosi come me, tranquilli, che gli piace il calcio. Io posso dire una cosa, negli anni 70 andavo a vedere a San Siro l'Inter e mi faceva molto paura, e in effetti sono tanti anni che non vado allo stadio sì. E mi guardo le partite, però io arriviamo nel 2014 e arriveremo ancora nel 3000 e faremo sempre questi discorsi, perché nessuno ha la voglia di tirare via questa delinquenza che c'è nel calcio, ma cominciando non solo dai tifosi, ma anche chi partecipa lì direttamente nel calcio. Perché ma secondo me Gino, ripeto, sarebbe meglio che ognuno avesse un minimo di senso della responsabilità, quindi certi atteggiamenti. Io sapete, non sono uno particolarmente buonista da questo punto di vista. Mi piace sentire, mi piacciono i personaggi, mi piacciono quelli che insomma hanno qualche cosa da dire. Mi piacciono entro certi limiti anche le polemiche calcistiche, le polemiche sportive, perché sono il sale di tutto. Certi comportamenti come il giocatore che se ne va dal campo, certi comportamenti come Mandorlini che canta Ti amo Terrone, certi comportamenti di questo tipo non mi piacciono, li trovo molto pericolosi, molto rischiosi, molto borderline, molto di cattivo gusto, molto fuori luogo. Perché non ci si fa giustizia da soli e perché non è il caso di buttare il cerino vicino alla pompa di benzina. Detto questo, lei ha ragione, negli anni 70 andare a vedere il calcio, io parto con testimonianze dirette dalla metà degli anni 70 per ragioni di età, però andare a vedere il calcio era molto più pericoloso, fisicamente pericoloso rispetto a quanto non sia ora. Ora potete dire clima sociale, potete dire politicizzazione delle tifoserie, però non passava domenica senza che ci fosse all'interno dello stadio una carica della polizia con gente che scappava, con gente travolta, eccetera, eccetera, fuori dallo stadio. Tutte le volte che entravi ed uscivi dovevi farti il segno della croce, perché era realmente pericoloso dal punto di vista dell'incolumità. Ora, gli stadi sono, gli stadi italiani ovviamente non sono posti per famiglie, sono dal punto di vista strutturale dei letamai e vengono popolati di conseguenza. Però dal punto di vista dell'ordine pubblico, e lo dico oggi dopo questo episodio di Roma di ieri, dal punto di vista dell'ordine pubblico, la situazione è molto più tranquilla rispetto a quanto non succedesse in quegli anni 70, 80, primi 90. E se non ve lo ricordate, documentatevi. Salvatore, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo cambiare un attimino il discorso. Certo. Volevo parlare del Napoli, no? Volentieri. Sì, il Napoli è partito bene, però poi alla fine la panchina non la vedo così lunga come pensava che fosse. Poi anche forse di Higuain, un altro attaccante non ce l'abbiamo in caso di un infortunio oppure anche di non. Insomma, mi sembra che il Napoli sia molto più profondo rispetto alle ultime stagioni, non trova? Cioè, sì. Legga la panchina del Napoli, insomma, l'anno scorso sarebbero stati tutti titolari. Sì. Però io il secondo attaccante ancora non ci vedo chiaro. Cioè, attaccante, lei dice vorrebbe un attaccante di scorta rispetto ad Higuain, sì, cioè un vice Higuain. Sì. Sì, vice Higuain, chi c'è? Nessuno. Ma magari arriverà, sì, magari arriverà entro le 23 di oggi. Entro oggi? Sì, può essere. Può essere. Speriamo, perché può essere sia così. Però, insomma, al di là di questo, mi sembra che dal punto di vista degli avanti sia messo benissimo Benitez. L'abbiamo sentito settimana scorsa chiedere anche lui qualcos'altro sul mercato, però mi sembra che il Napoli sia una squadra estremamente completa e compiuta così com'è. Poi Higuain magari non segnerà i gol di Cavani, però per la squadra è molto più utile, è un giocatore che è un attaccante estremamente moderno e completo al di là dei gol che sarà in grado di fare. E poi tolta quella zagara, come dice De Laurentiis, è anche un giocatore molto, molto integro, e qui i napoletani fate pure gli scongiuri che volete. Insomma, il Napoli è uno squadrone ed è anche quanto di più divertente ho visto fin qui in queste prime due giornate di campionato, prima del solito campionatus interruptus, che peccato. Altra cosa che, dunque, chiudiamo con un'altra cosa che voi lo sapete, conoscete la mia passione, mi ha eccitato profondamente ieri: il duello tra in Inghilterra tra Lorenzo e Marquez, meraviglioso. Lorenzo, sono molto emozionato perché questa vittoria ha costato molto sforzo, molto sacrificio e molti momenti brutti anche, però finalmente in un stato di forma altissimo di Marc e anche della sua moto abbiamo potuto batterlo a qui, e significa tantissimo, sono molto contento, è stata una bella battaglia con lui non molla mai, allora è molto difficile poter con lui e con il suo team. Voi sapete anche, conoscete anche la mia passione e predilezione, il mio tifo dichiarato e sfegatato per Valentino Rossi. Ieri ancora quarto, ho l'impressione che abbia ragione chi dice gli anni passano per tutti, non solo per Cacà. Il quarto, diciamo, è quello che arriva alla festa e non lo fanno entrare, no? Rimane fuori, perché il podio è sempre una grande soddisfazione, ecco, quindi fare tre volte quarti di fila. E c'è di positivo che con Bautista mi tengo allenato per l'ultimo giro, questa è una cosa positiva. Hai sempre un po' paura quando hai Bautista di fianco? No, vabbè, stiamo facendo delle belle bagarre e poi mi tengo allenato. Quando riusciremo a trovare quei 2-3 decimi sarò già pronto per la battaglia degli ultimi giri, ecco. Valentino una volta, insomma, faceva spallate per il mondiale, adesso Bautista, Bradl, questi piloti che una volta non avrebbe neanche visto. Allora, 13:01 agenzia, maglietta bianca e jeans, sorridente e felice Riccardo Cacà ricomincia dal Milan da 15 giorni. Certi amori, ma mi volete proprio male, eh? Ho capito che potevo tornare, il Milan è l'ideale per me, e negli ultimi giorni sognavo di risentire i cori che i tifosi intonavano a San Siro. Qui trovo sempre grandi campioni, prima c'era Pippo Inzaghi, ora Balotelli. Spero di vivere grandi gioie con Mario. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti, a domani.